l'Osservatorio America Latina del Centro Sociale XM24 di Bologna e il Nodo Solidale di Roma presentano Storie di Ordinario Messico. Dedichiamo questa nostra prima puntata al compagno Egidio, con cui in questi anni abbiamo condiviso tante esperienze di lotta e di autogestione, con il sogno nel cuore di un'utopia che si realizza giorno dopo giorno. Le parole, il coraggio e la determinazione con cui hai attraversato il movimento si fanno stimolo di resistenza per tutti e tutte noi. Le battaglie vanno combattute fino in fondo, con la responsabilità che stava nella tua presenza. Grazie Egidio. Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi, stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Storie di Ordinario Messico. Un viaggio che ci porterà a conoscere le voci del popolo messicano in resistenza. Un popolo in lotta per ottenere la propria dignità. Un popolo che non dimentica la rivoluzione messicana, che solo un secolo fa liberò il paese, restituendo le terre ai contadini. Il nostro viaggio in Messico inizia da una tappa fondamentale. Quasi all'alba arriviamo a Oaxaca, capitale dello stato omonimo, dopo 6 ore di viaggio con il bus da Città del Messico. Dopo la colazione ad un baracchino sulla strada con cioccolato e pane dolce, andiamo a sederci sulla piazza principale della città, che i messicani chiamano Zocalo. Qui nel 2006 gli scioperi dei maestri per le contrattazioni salariali annuali a causa delle inaccettabili posizioni dell'autoritario e impopolare governatore Ulises Ruiz del PRI sfociarono in una massiccia contestazione che vide migliaia di maestri in planton, in presidio permanente, nel centro della città, di fronte al palazzo del governatore. Il 14 giugno, dopo quasi un mese di presidio, Ruiz ordinò ad un imponente contingente di polizia di distruggere accampamenti e barricate, senza fermarsi neanche di fronte ad anziani, donne e bambini. Nel giro di alcune ore, la città combatté e riconquistò il presidio. La violenza delle forze dell'ordine non fece altro che rendere il movimento assai più vasto. Non solo i maestri, ma migliaia di persone occuparono tutto il centro della città, facendo barricate e manifestazioni con centinaia di migliaia di partecipanti. Parlando di giustizia, di auto-organizzazione, di diritti per tutti, la città intera e tutti i villaggi intorno si riunirono per dare vita a uno dei più grandi movimenti popolari che il Messico ricordi negli ultimi 10 anni. Nacque così l'APO, l'Assemblea Popolare dei Popoli di Oaxaca. Al suo interno, l'APO ha differenti pareri sulle cause del conflitto. C'è chi ritiene che la repressione del 14 giugno fu un detonante in quanto le organizzazioni sociali e le comunità non ricevettero risposte adeguate dal governo di Ruiz. C'è poi la visione delle organizzazioni indigene. La lotta dei loro popoli iniziò molti secoli fa, da sempre, però non riuscì mai a trovare la giusta forma e il livello di movimento sociale come invece successe in quest'ultima tappa. Loro hanno sperato con ansia una lotta di queste dimensioni per dare un messaggio al sistema e ai suoi governatori. Il popolo e la cultura indigena non sono rovine tenute in piedi da fossili viventi. Hanno custodito gelosamente in tutti questi anni il coraggio e la dignità che oggi si fa ribellione. Come tributo ai morti di tutta una storia fatta di oppressione. Ascoltiamo ora Manifestación di Los Muertos de Cristo. Quando il movimento si estese a tutta la popolazione, vennero organizzate numerose manifestazioni di massa, chiamate Mega Marchas. Le dimostrazioni riempirono Oaxaca di centinaia di migliaia di persone che chiedevano diritti e giustizia per tutte e tutti. Un compagno di una comunità indigena che ha partecipato alle iniziative ci ha fatto un report di una delle più partecipate Mega Marchas, la 7ª. Del 25 novembre 2006. L'appuntamento era per le 9 del mattino di sabato 25 novembre 2006, attorno al Palazzo del Governo del municipio di Santa Maria Coyotepec. Gli organizzatori, appartenenti all'Assemblea Popolare dei Popoli di Oaxaca, conosciuta come APO, hanno invitato tutta la cittadinanza a circondare per 48 ore con una grande manifestazione il centro della città di Oaxaca, dove dallo scorso 29 di ottobre si è installata, su richiesta del governo dello Stato e per ordine del governo federale, la Polizia Federale Preventiva, PFP, per ristabilire l'ordine dopo 7 mesi di proteste in tutto lo Stato di Oaxaca. Come si ricorderà, in tutti i mezzi di comunicazione è stato pubblicato il documento firmato dal presidente della Camera dei Deputati, Pulmaro Rito Salinas, dove si esigeva al governo federale l'immediata presenza della Polizia Federale e delle forze armate dell'esercito messicano per reprimere le migliaia di manifestanti di Oaxaca che si stavano ribellando al malfunzionamento della presente amministrazione e soprattutto contro la dura repressione che stavano subendo. Da giorni già si annunciavano scontri tra la Polizia Federale e i manifestanti e per questo, come avevano fatto già nelle precedenti manifestazioni, la polizia si era munita di fionde, di blindati, di bombe con gas lacrimogeno lanciate da potenti cannoni, manganelli, scudi, giubbotti antiproiettili, eccetera. Pur sapendo quale sarebbe stata la risposta del governo, i manifestanti cominciavano ad arrivare, chi in autobus, chi con mezzi propri o camminando tra la folla che già si accalcava lungo le strade aspettando la manifestazione. Al concentramento il tempo trascorreva tra coperte, appunti, canzoni di protesta, bibite rinfrescanti e intanto si preparavano acqua con aceto, bandane, carriole con pietre, bottiglie Molotov e bombe carta. Dopo 3 ore di attesa, la 7ª megamarcia cominciò ad avanzare verso il centro della città di Oaxaca. C'erano universitari, gente di quartiere, maestri, bambini, casalinghe, commercianti, contadini e tanti altri. In testa al corteo c'erano tra gli altri Flavio Sosa Villavicencio, Erangelio Mendoza, Felipe Martinez Soriano. Accompagnati da canti, più di 20.000 manifestanti avanzavano. Giunti alla barricata dei simboli della patria, la manifestazione si fermò per rendere un combattivo omaggio al signor Alejandro García Hernández, che fu ucciso dall'esercito messicano. Sulla croce che indica il luogo dell'assassinio sono state deposte umili corone di fiori ed è stato intonato il canto Venceremos. Da lì la manifestazione proseguì per le strade Calle de Fiallo, Reforma, Abrasolo, Palacios, Cotape García e infine ritornò a Reforma. I cordoni arrivarono fino a Calle de Guerrero e il blocco riuscì quasi a coprire l'intera area programmata. Mancavano circa 20 minuti alle 5 del pomeriggio. I toni cominciarono ad infiammarsi quando nella Calle de Guerrero la Polizia Federale ordinò a un gruppo di manifestanti che avevano messo di traverso un autobus di fronte alla scuola elementare Basilio Rocas di sciogliersi, se no li avrebbero caricati. Intanto a Morelos, Alcala e García Vigil erano cominciati gli scontri. Poco dopo le 5 del pomeriggio, la Polizia Federale comincia a lanciare lacrimogeni, a cui i manifestanti rispondevano lanciando bombe carta, molotov e pietre, che colpivano i blindati, i corpi, le macchine fotografiche e le telecamere della polizia. Le donne, con stracci imbevuti di acqua e aceto, bagnavano gli occhi rossi dei combattenti. Altre, con gran coraggio, caricavano le bombe carta e si avvicinavano alle carriole colme di pietre. Non erano queste immagini di un film, ma scene reali di uno scontro annunciato che è esploso quando i potenti spruzzi d'acqua con elementi chimici cominciarono ad investire i manifestanti. Tutto questo succedeva mentre il sole illuminava il pomeriggio. Pochi minuti prima delle 6, una bottiglia Molotov veniva lanciata per sbaglio su una casa fra la calle 5 de Mayo e Morelos. Inoltre, in Calle de Murgia, stava bruciando la porta di un negozio di strumenti musicali. Intanto, a Morelos, García Vigil e Porfirio Díaz, gli scontri con gas e pietre lasciavano feriti, ed entrambe le parti si lanciavano grida minacciose. Sul far della notte, i ribelli, con un piano suicida, si lanciavano con gli autobus contro gli schieramenti della polizia, rotolando fuori poco prima dell'impatto, come in un film di 007. Perdendo il controllo della situazione, i reparti di polizia si buttavano contro i muri delle case. La strada pedonale Macedonio-Alcala diventò un campo di battaglia. Da quel momento la polizia cominciò ad avanzare da più parti, verso il nord della città, Centinaia di poliziotti invasero le strade, inseguendo e catturando i manifestanti, molti dei quali furono brutalmente feriti. La schiacciante avanzata arrivò fino a Santo Domingo de Guzmán, dove attaccarono il presidio dell'APO, distruggendo viveri e picchiando la gente dell'Istituto di Arti Grafiche di Oaxaca. Nel frattempo c'erano macchine in fiamme in García Vigil, Abrasolo, Constitución e molte altre parti della città. L'associazione degli hotel e dei motel, situata nei quartieri Ozbal e Reforma, stava bruciando. Verso le 8 della sera le fiamme consumano la sede del tribunale in Avenida Independencia e Melchor Ocampo. Alle 8.30 i blindati della polizia arrivano fino al seminario pontificio di García Vigil. Nello stesso momento vengono dati alle fiamme 13 veicoli di proprietà del tribunale federale. Lo stesso spettacolo si osserva al teatro Juárez, mentre la segreteria del turismo vomita fuoco. E ora ascoltiamo Bazuqueros. Il periodo che seguì viene ricordato come quello della repressione. La violenza delle forze armate si intensificò quando entrò in scena il PFP, la Polizia Federale Preventiva mandata dal presidente. Un reparto con speciali addestramenti da esercito, ma con compiti legati alle operazioni civili. L'entrata in scena del PFP coincide con un'escalation di massacri e violenze da parte delle forze dell'ordine. Il bilancio fu di 23 vittime, decine di feriti e desaparecidos. Molti vennero arrestati, picchiati, torturati. Chi cadde nelle loro mani fu un'altra vittima pallida e sanguinante dei feroci metodi che la polizia messicana è solita utilizzare per gli interrogatori. Siamo andati a Santa Maria Coitepec a incontrare Ementerio Marino Cruz. Nel 2007 Ementerio è stato arrestato durante gli scontri di Oaxaca. Ementerio è vivo per miracolo. Dopo un lungo coma ha dovuto subire degli interventi da cui era uscito praticamente paralizzato. Ora sta facendo delle terapie per recuperare e riesce di nuovo a camminare e a parlare. Nessuno lo sperava più, ma Ementerio è vivo ed è testimone degli abusi e delle torture della polizia messicana. ingresé al Movimiento Popular Magisterial en los años 92, que yo ingresé al magisterio, estuve trabajando 2 años en el magisterio en nivel preescolar. Sono entrato nel Movimento Popolare degli Insegnanti nel 1992. Io ero un insegnante d'asilo fino al 2002, quando ho perso il lavoro e da allora ho iniziato a fare l'idraulico. Da tempo quindi io ero un militante del Movimento Popolare e qui nella mia comunità sono sempre stato contro tutti i ricchi che sfruttano i poveri. Mi sono sempre opposto a questo. Quando i miei figli sono entrati al liceo, mi sono trasferito con loro a Oaxaca, continuando a lavorare come idraulico. Il 14 giugno, quando il governo mandò la polizia a reprimere il movimento degli insegnanti, io stavo già con loro, anche perché mia moglie era maestra. Quando sgomberarono il planton dello Zocalo, io ero lì e mi presi anch'io i lacrimogeni. Il 16 luglio del 2007 era programmata una manifestazione popolare al Cerro del Fortín, un monte vicino Oaxaca, dove si tiene il più importante evento turistico dell'anno, il Festival della Danza di Gualaguetza. La manifestazione però trovò la polizia che bloccava il passaggio, non lasciarono passare nessuno e cominciarono le aggressioni contro gli insegnanti, con pestaggi, gas lacrimogeni, manganelli e poi cominciarono a lanciare granate. Volevo scappare perché quel giorno dovevo lavorare in un quartiere che si chiama Rio Blanco, che appartiene a Colonia Estrella. Vedendo come la polizia prendeva le maestre e picchiava le donne, vedendo questo pensai molto a mia moglie e ai miei figli, soprattutto al piccolo. Allora tornai indietro e andai al Fortín per vedere che succedeva. Lì c'era una pesante repressione, così mi unii ai maestri e presi pietre per difendermi. Successe però che, correndo per una salita, un poliziotto mi sparò un gas lacrimogeno, colpendomi alla schiena. Fortunatamente avevo lo zaino con gli attrezzi, che ha attutito il colpo, ma sono comunque caduto per terra. Mi rialzo e scappo. Con gli altri insegnanti ci nascondemmo, ma era pieno di polizia. Ci presero e ci picchiarono brutalmente. Io venni picchiato di più perché mi accusavano di aver bruciato il Fortín, di aver rubato in un negozio e aver bruciato degli autobus. Lì mi presero in consegna i comandanti Aristeo e Barritas, mi fecero picchiare e mi portarono in ginocchio fino al Cerro del Fortín. Lungo la strada mi buttarono ancora per terra e mi picchiarono, come se fossi un ladro o un assassino. Arrivati al Cerro del Fortín, mi portarono dentro dei bagni. Mi tolsero i pantaloni e la camicia, mi misero una benda agli occhi e mi legarono mani e piedi. Mi trascinarono fino ad un bagno, dove c'erano molti escrementi. Lì mi tolsero la benda dalla faccia e mi infilarono la testa nella tazza del water, tutto sporco. Ma io avevo già ricevuto un forte colpo in testa, perciò quasi non sentivo l'odore. Mi portarono dietro il bagno e mi versarono una bibita al peperoncino dentro le narici. Io mi sentivo già male e per la verità chiesi perdono. Dissi, perdonatemi, io ero qui per lottare per il popolo, non mi trattate così, piuttosto ammazzatemi. Certo che morirai, cane, mi dicevano, perché a chi manca di rispetto al governatore gli spacchiamo il culo. Così mi torturarono per 3 ore, mi diedero scosse elettriche sui testicoli, mi bruciarono il braccio con una fiamma ossidrica, mi infilarono aghi sotto le unghie. Dopo 3 ore di torture mi misero su un furgone con gli altri insegnanti e ci portarono in un posto molto lontano, su un monte. Da lì ci portarono allo Spinos, dove c'era il comando della polizia ministeriale. Lì ci portò la polizia penitenziaria. Arrivai lì con altri 40 compagni, però io ero quello messo peggio, perché mi avevano picchiato di più. Quando arrivai lì, un certo comandante Camarina disse, «Perché questo sta messo così?» «No, è che è caduto da solo», risposero gli altri poliziotti. «Beh, bisogna ucciderlo, tanto questo non sopravvive», disse. Così mi prese e mi diede un colpo alla testa col calcio della pistola. Persi conoscenza, rimasi a terra 4 ore ed entrai in coma. Mi portarono via dallo Spinos e mi abbandonarono sulla montagna. Alle 8 di sera, la reporter Olivia Cerón pubblicò in televisione le foto del mio pestaggio. Quando i poliziotti videro la notizia, vennero a riprendermi e mi portarono di nuovo allo Spinos. Poi arrivò un'ambulanza della Croce Rossa e mi portò all'ospedale civile. Lì, per ordine del governatore, mi aspettava il direttore dell'ospedale con l'ordine di salvarmi la vita. Per 2 giorni dissero a mia moglie che non ero ricoverato lì e che non mi avevano mai visto. Quando finalmente riuscì a vedermi, disse che ero sfigurato, con la testa gonfia e nera, con una grossa ferita sanguinante sul lato della testa. Dopo l'operazione vennero a trovarmi molte associazioni internazionali per i diritti umani. Uno di loro, Florentin Mendez, di Città del Messico, mi venne a visitare e parlò con Ulisses, che gli disse che in 5 giorni sarei stato meglio e che mi avrebbero rimborsato i danni. In realtà non mi hanno mai dato nulla, anzi mi continuano a reprimere. Lo scorso 3 luglio venne Ulisses in visita al mio quartiere. Così riempirono la strada dove vivo di polizia, dicendo a mia figlia che dovevamo andarcene perché dovevano proteggere il governatore, visto che Ulisses aveva paura a stare dove vivo io. Quando cercai di uscire per comprare qualcosa ad un negozio, mi presero, mi picchiarono ancora e mi minacciarono di morte. Allora mia figlia disse che Ulisses è un maledetto assassino che aveva fatto del male a suo padre. La polizia le disse: stai zitta, cagna. La picchiarono in faccia e a calci ci fecero tornare a casa. Contattammo subito i compagni della APU, che arrivarono in 200. Vedendo ciò, Ulisses e i suoi poliziotti scapparono via. Vennero poi i funzionari per i diritti umani di Oaxaca a vedere come stavo dopo quest'ultimo pestaggio, ma fino ad oggi non mi hanno mai fatto giustizia. I Mano Negra con il signor Matanza. Ascoltiamo ora l'intervento di César Luis Díaz, un indigeno zapoteco della comunità di Xanica, appartenente al CODEDI, il Comitato di Difesa dei Diritti Indigeni. Loro hanno partecipato fin dall'inizio al movimento della APO, come proseguimento naturale di una lotta di resistenza che dura da tempo. Nel 2006 fu un movimento abbastanza forte, in donde aglutinò la maggior parte del Stato. Nel 2006 il movimento fu molto forte e riuscì a coinvolgere gran parte dello Stato di Oaxaca. E quindi che fa il governo quando il popolo si sveglia e reclama i suoi diritti? Lo reprime, come nel caso dello sgombero del planton degli insegnanti del 14 di giugno di quell'anno. Anche la nostra organizzazione era presente in quel momento e c'erano anche mia moglie e i miei figli. Ancora una volta abbiamo potuto vedere con quanta inumanità il governo reprime, senza importargli niente se ci sono donne o bambini. Per me questo signor Ulisses è un sanguinario a cui non importa niente della vita umana. Quel giorno mio figlio, Celerino Luis Martinez, è stato gravemente ferito e rischiava di perdere la vita. Ho visto come la polizia picchiava le donne, ho visto come picchiavano i uomini, come picchiava i bambini. Ci sono stati 25 morti durante il movimento dell'app. Ci sono stati arresti e molti compagni sono scomparsi e ancora oggi non si sa niente di molti di loro. Non si è fatta giustizia ai morti e gli arrestati marciscono nelle carceri subendo processi che sappiamo essere manovrati dallo Stato. Come sempre, il governo dimostra al popolo che se comincia a lottare, se comincia ad organizzarsi, quello che gli spetta è la morte, il carcere o comunque di essere picchiato. Molti però si sono accorti che il potere è riuscito pian piano a comprarsi i dirigenti di questo gran movimento. E avevamo ancora ragione quando dicevamo che un movimento che ha dei dirigenti non funziona. Noi crediamo invece in un movimento di base, dove le decisioni si prendono in assemblea e non dai dirigenti. Il governo quindi ha trovato il modo di dividere questo movimento e oggi l'APO continua sicuramente ad esistere, ma non ha la stessa forza che aveva nel 2006. E oggi in dia, pues, l'APO, si può dire, ahí permanece, pero ya no tiene las mismas fuerzas que en el 2006. Ora ascoltiamo Protesta Music Reg. Para los pueblos del mundo oprimidos, para la rima que educa y construye, para la izquierda que vive y resiste, para los pueblos del mundo oprimidos, para la rima que educa y construye, para la gente que lucha por el progreso. Es la Bolivia que lucha fuerte, sabia y digna como Aymara, descolonizando cabezas, conciencias que se levantan. Son nuestros pueblos guerreros desenfundando la espada, recuperando siglos de la historia secuestrada. Venezuela y su proyecto tapando bocas escépticas, resurge fuerte con escépticas, retumba tambores históricos. Es el poder que como agua se te escapa entre los dedos, aunque refuerces tus ejércitos de matadero. El agua faca de México poniendo caca a todos los mafiosos corruptos, que como eructo abrupto dan vergüenza y saben feo. Se creen inmunes a un pueblo en ira organizado, se creen perpetuados en el poder y lo que están es acorralados, acobardados, porque el maremoto ya no espera. Toda la catombe se te viene encima, que construyas más largo el muro en la frontera, ni que de contención prisión. Hay algo a punto de explotar, pero esta vez con dirección y como una catombe. Vamos formando tu mando catombe, tu mala rumba o casa mambo, despechos hechos tango, por entre los escombros, directo de lo hondo. Es boca floja, malena y redención formándose el quilombo. Para la izquierda que vive y resiste, para los pueblos del mundo oprimidos, para la rima que educa y construye, para la izquierda que vive y resiste, para los pueblos del mundo oprimidos, para la rima que educa y construye, para la gente que lucha por el progreso. Argelia dijo que sí cuando incendiaron París. ¿Quién no se puso feliz cuando gritaron que Evo era presidente? Pensamos que era rap lo que sonaba en Palestina y su rebelde contingente. Sobraron las razones con dirigentes masones vendiendo las posiciones. Por eso es que robaron de nuevo las elecciones. Y no es tener un gusto filantrópico, filantrópico. Porque esto es más que una etiqueta, cuando son varios ya los sumados. Ahora se intenta salvar a un continente que antes se había regalado. Vamos con Evo en Bolivia, Lula en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina. Gritamos por Cuba libre en contra de Bush, su guerra y la CIA. Allá en Venezuela el pueblo ya se escuchó. Unidos prosperaremos, aquí ya no hay discusión. Que aquí gobierne quien la suda, porque hay clases muy distintas y la distancia ya es mucha. Se busca el superávit de los pueblos marginados, porque el déficit mental y monetario está aumentando. Buscamos la vida digna para los seres trabajadores, mujeres y hombres igual, menos patrones explotadores. Se nos absuelve de este deseo por igualdad, y así con Jara cantamos, Allende soñamos y el grito va a continuar. Sí, para la izquierda que vive y resiste, para los pueblos del mundo oprimidos, para la rima que educa y construye, para la izquierda que vive y resiste, para los pueblos del mundo oprimidos, para la rima que educa y construye, para la gente que lucha por el progreso. Thank you. Purtroppo, come spesso accade, anche l'app conobbe il suo momento di riflusso e oggi non ha più la carica che solo 3 anni fa aveva in mano la rivolta di un intero Stato. Colpa della feroce repressione, senza dubbio, però anche della corruzione di alcuni leader, delle insanabili divisioni politiche, della delusione popolare a vedere Ulysses Ruiz Ortiz sempre allo stesso posto. Tutto questo fa oggi della app il fantasma di se stessa, un'assemblea usata da molti come trampolino per fare carriera politica, non più l'organizzazione di base popolare che animava le assemblee di massa di Oaxaca. Nel 2007 la OIDO, l'Organizzazione India per i Diritti Umani nello Stato di Oaxaca, che da subito ha partecipato alle iniziative di piazza contribuendo alla nascita della app stessa, prende una posizione critica nei confronti delle scelte di alcuni dirigenti riguardo le negoziazioni e la piattaforma elettorale con l'opposizione di sinistra del PRD. Secondo la OIDO, non esiste nessun compromesso con chi ha ammazzato e stuprato e non si partecipa alle elezioni organizzate da chi ha incarcerato e condannato. In un loro intervento all'assemblea della app del 4 febbraio 2007 dicono: per tutto quello che abbiamo detto, è impossibile per noi appoggiare quelle posizioni che vogliono convertire la app nella comoda piattaforma per candidatura a deputati applauditi dagli stessi assassini repressori. Strana coincidenza, dalla destra autoritaria fino alla nuova sinistra e alla vecchia sinistra, includendo gli stalinisti, si chiedono posti nello stesso congresso che già abbiamo fatto sparire. Adesso vogliono partecipare alle elezioni organizzate da un governo e da un istituto statale elettorale che già abbiamo disconosciuto. Adesso si mettono d'accordo in riunioni a porte chiuse alle spalle della maggior parte della app e del popolo. In più, già hanno dichiarato pubblicamente che la app è cosa del passato e senza dubbio sperano che noi saremo la loro piattaforma e che faremo il loro lavoro nella campagna elettorale. Adesso vogliono abbattere il tiranno attraverso quelle stesse istituzioni putrefatte che hanno defraudato non solo il popolo di Oaxaca, ma tutto il popolo messicano. Adesso quelle e quelli che figurano, grazie al movimento, nelle radio, nelle conferenze stampa e nei discorsi, diffondendo il loro nome e le loro bandiere, sia detto contro gli accordi dell'app, vogliono utilizzare questi nomi e queste bandiere per candidarsi, dimenticandosi che poterono solamente figurare grazie alla lotta di centinaia di migliaia di donne e uomini che rischiarono ed anche persero la loro vita per conquistare un vero cambio a Oaxaca. Pertanto risulta impensabile un'alleanza con le forze politiche cosiddette d'opposizione, quando tutti siamo stati testimoni del ruolo completamente indegno che loro hanno giocato, come per esempio il tristemente celebre PRD statale in questi ultimi mesi, dando le spalle alla lotta legittima del popolo organizzato nell'app, al punto che hanno chiesto, insieme con i partiti che stavano al potere, la repressione del movimento attraverso l'entrata della Polizia Federale preventiva. Silvio Rodriguez, Io te quiero libre. Io te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. Questa puntata è stata realizzata da Fazio, Max, Prox. potete scaricare l'MP3 della puntata dai siti reporter.endivia.net, www.autistici.org/nodosolidale. Las calles paseando, me miraron una escena tan triste, la injusticia de una bestia humana, que con su arma un obrero golpeaba, un policía le estaba quitando a ese hombre con un trago encima, su dinero que con tanto trabajo había ganado en 7 días de su vida, él solo lloraba por su impotencia, le pedía clemencia por su familia, él solo lloraba, sabía que lo esperaba, en su casa su mujer e hijos no había nada, el dinero y él faltaban, algunos quisimos ayudar, pero muy pronto fuimos sometidos, más azules habían llegado ya, ni a palazos nos echaron a un lado, el uniformado no escuchaba nada, parece estar posesionado, no se dio cuenta que de un cachazo la vida le había arrebatado, aquel obrero quedó tirado con la mirada hacia el cielo, con un gesto de dolor inmenso, en su casa solo se habían quedado. ¿Quién dará ahora a su hogar apoyo económico y moral? ¿Será que el policía chacal que a ese hombre le hizo fácil matar? Policía chacal, policía chacal, policía chacal. Él solo lloraba por su impotencia, le pedía clemencia por su familia, él solo lloraba, sabía que lo esperaba, en su casa su mujer e hijos no había nada, el dinero y él faltaban. Solo lloraba por su impotencia, le pedía clemencia por su familia, él solo lloraba, sabía que lo esperaban, en su casa su mujer y con no había nada, el dinero y él faltaban, policía chacal. Policía chacal, policía chacal.